Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. L'emergenza Covid ha avuto un ampio impatto sulla salute di tutta la popolazione, non solo delle persone che hanno contratto l'infezione. Il lockdown ha generato criticità nell'assistenza sanitaria alle persone affette da malattie croniche, come il diabete mellito. Ma, sorprendentemente, uno studio mostra un effetto positivo prodotto dal cambio di vita imposto dal lockdown. Commentiamo i risultati dello studio, condotto dai ricercatori dell'Università di Padova e dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare, con il professor Giampaolo Fadini del Dipartimento di Medicina dell'Università e coordinatore del Laboratorio di Diabetologia Sperimentale dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare, che ha coordinato lo studio. Buongiorno a tutti. Parliamo in questo momento di pazienti col diabete di tipo 1, cioè persone giovani di età di 30-40 anni che dipendono dall'insulina fondamentalmente per sopravvivere e che quindi devono adeguare la terapia alla propria vita lavorativa, sociale e personale. Eravamo molto preoccupati che le glicemie e quindi l'andamento della loro malattia potesse peggiorare durante il lockdown a causa della limitata possibilità di fare sport, dello stress psicologico imposto da una condizione praticamente senza precedenti nella vita delle persone. E quindi abbiamo avuto la possibilità di monitorare in diretta alcuni di questi pazienti mediante l'uso di un sensore glicemico collegato all'ambulatorio diabetologico, e questo sistema permette di vedere in diretta l'andamento glicemico. E appunto, sorprendentemente, abbiamo osservato che nella prima settimana del lockdown, del periodo cosiddetto io sto a casa, il diabete invece è migliorato nei pazienti che hanno smesso di lavorare, erano in smart working, probabilmente perché avevano più tempo da dedicare al diabete, forse una maggiore regolarità nei controlli e nella terapia con l'insulina e forse una maggiore attenzione alla dieta. C'è anche un altro elemento positivo, cioè nei pazienti che durante il lockdown hanno continuato a lavorare, molti dei quali erano operatori sanitari o coinvolti nell'agroalimentare, nonostante lo stress e la difficoltà del periodo, grazie ai sensori glicemici e all'uso del microinfusore, il loro andamento non è peggiorato ma è rimasto stabile. Per cui un elemento di grande positività, diciamo di ottimismo, e una possibilità di evidenziare come la tecnologia viene in aiuto della gestione di questi pazienti con il diabete di tipo 1. Professor Fadini, abbiamo parlato di diabete di tipo 1, ma la forma di diabete più diffusa è il diabete di tipo 2, che si può prevenire e che dobbiamo imparare a riconoscere precocemente. Come? Verissimo, la maggior parte del diabete è diabete di tipo 2. Bisogna ricordare quali sono le persone a rischio di sviluppare questa condizione: sono soggetti dopo i 40 anni, soprattutto se in sovrappeso, o coloro che hanno un familiare con un diabete di tipo 2, oppure le donne con un precedente diabete gestazionale, no, diabete in gravidanza, o le persone che hanno il colesterolo alto, i trigliceridi alti e l'ipertensione. Queste sono le persone che devono stare attente perché potrebbero sviluppare il diabete di tipo 2. E poi è utile sempre ricordare alcuni dei sintomi che possono essere la spia di un diabete misconosciuto, cioè che il paziente non sa di avere. Questi sintomi sono la necessità di andare a urinare frequentemente molto, la sete intensa, le infezioni urinarie o del tratto genitale nelle donne, e sono dei sintomi che ogni tanto vengono trascurati ma possono nascondere che il fatto che la glicemia sia già alzata e quindi c'è un diabete misconosciuto. È importantissimo fare la diagnosi più precocemente possibile. Grazie al professor Fadini, per oggi è tutto. Io vi aspetto come sempre anche sulle pagine Facebook del programma. Buona giornata da Nicoletta.